Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Apriamo oggi il nostro appuntamento quotidiano con i risultati di uno studio dell'Università di Padova che porta buone notizie alle persone con diabete che in questi giorni hanno vissuto momenti di grande preoccupazione. In linea con noi abbiamo il professor Giampaolo Fadini, endocrinologo del Dipartimento di Medicina dell'Università di Padova, che all'Istituto Veneto di Medicina Molecolare dirige il laboratorio di diabetologia sperimentale ed è uno degli autori dello studio. Professore, buongiorno e grazie. Buongiorno a voi. Professore, i centralini delle società scientifiche di diabetologia sono stati in questi giorni sommersi da chiamate da parte di persone con diabete spaventate rispetto al loro rischio di contagio, ma ci sono delle notizie rassicuranti. Che cosa dice il vostro studio, professore? Ci racconti? Sì, il problema è che le notizie rilasciate all'inizio dell'epidemia dicevano che le persone con diabete erano più a rischio di contrarre il coronavirus. In realtà dal nostro studio emerge che il problema riguarda le complicanze della malattia virale e non il rischio di contrarre l'infezione. Quindi le persone con diabete sono a maggior rischio di complicanze, da qui, professore, la raccomandazione ad essere prudenti come più del resto della popolazione e seguire le misure di prevenzione. Sì, assolutamente. Infatti questa informazione deriva dall'analisi di 12 studi cinesi e anche dai primi dati italiani. I diabetici non sono più a rischio di contrarre l'infezione, ma una volta ammalati il rischio di complicanze sembra essere maggiore. Professore, vuole dare delle indicazioni, seguire scrupolosamente le misure di prevenzione sia per la persona con diabete sia naturalmente per i familiari che vivono quindi con una persona con diabete. Professore. Sì, certo, valgono le regole date dal Ministero della Salute, i familiari conviventi delle persone con diabete quindi non sono più a rischio di contrarre il coronavirus, ma se le persone con diabete sono positive al virus, anche i familiari devono porre particolare attenzione alla comparsa dei sintomi respiratori che possono indicare una progressione dell'infezione. Invece, professor Fadini, nella gestione quotidiana, quali sono le attenzioni che il paziente deve avere per il controllo ottimale della malattia anche in questa emergenza? Per quanto riguarda le ricette, gli esami, i consulti, sono stati attivati dei servizi? Ha qualche indicazione per noi? Sì, questa è una cosa molto importante perché in questa fase tutta l'attenzione del sistema sanitario è concentrata sul coronavirus, però è importante che le persone con diabete non siano trascurate. Quindi ricordo che è necessario continuare a seguire la dieta e le cure farmacologiche. Molti centri e molte regioni si sono attivati per far recapitare le ricette elettroniche ai pazienti. Inoltre, con qualche attenzione, anche a casa si può fare un po' di ginnastica che è utile per la gestione del diabete. In questo periodo invece non è indispensabile fare esami di controllo, esami del sangue, e le visite di routine sono sospese. Le società scientifiche hanno attivato un numero verde per rispondere, sì, a dei quesiti generici sulla gestione del diabete, mentre se il paziente ha necessità di mettersi in contatto con gli ambulatori, i centri antidiabetici su tutto il territorio sono a disposizione per effettuare delle visite telematiche o anche telefoniche individuali in cui il paziente può mettersi in contatto con il medico, il diabetologo che conosce. Il numero verde, professor Fadini, è 800-942425. Naturalmente lo postiamo anche sulla pagina di Obiettivo Salute. Professor Fadini, uno studio pubblicato su una prestigiosa rivista di diabetologia suggerisce che il SARS-CoV-2 sembra legarsi ad un recettore che è lo stesso sul quale agiscono i farmaci antidiabete. Da qui l'ipotesi di utilizzare questi farmaci nelle forme nelle fasi iniziali della malattia, nelle forme anche lieve. Professore, è una agenzia che sta circolando da ieri, ci vuole fare chiarezza? Sì, al momento si tratta solamente di un'ipotesi, ovvero che uno dei farmaci più utilizzati per il trattamento del diabete di tipo 2, cioè negli adulti e negli anziani, abbia anche una potenzialità di impedire l'ingresso del virus nelle cellule, quindi l'infezione virale. È un'ipotesi basata sugli studi su altri coronavirus che utilizzavano questo recettore, diciamo questo bersaglio per entrare nelle cellule, mentre per quanto riguarda il coronavirus che sta causando l'attuale epidemia pare che non utilizzi questo recettore, ma quindi al momento si tratta soltanto di un'ipotesi che va verificata con dei dati sperimentali. Professor Fadini, io la ringrazio per essere stato con noi. Ricordo agli ascoltatori che postiamo il numero verde a cui ha fatto riferimento il professor Fadini sulle pagine di Obiettivo Salute e che la Società Italiana di Diabetologia e l'Associazione Medici Diabetologi hanno dato vita ad una bella iniziativa che parte proprio oggi. Sulle pagine Facebook delle due società è possibile seguire dei video tutorial sulla gestione del paziente tutti i giorni dalle 18 alle 19, ma non vi preoccupate se non riuscite a prendere appunti, perché trovate tutte sulle pagine di Obiettivo Salute. Professor Fadini, grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Allora, a proposito di numeri, 349-238-6666, questo è il numero per restare in contatto, potete mandare i vostri messaggi, i vostri vocali, c'è sempre Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, in assistenza Alessandro Marco Tulli, in redazione Laura Vanossi, naturalmente che ringrazio, ma ringrazio anche il professor Stefano Vella che è in linea con noi. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Infettivologo, docente di salute globale all'Università Cattolica di Roma, attualmente fa parte del comitato scientifico della Presidenza Regione Sardegna per l'emergenza Covid. Professor Vella, in questi giorni in cui i dati sembrano far intravedere uno spiraglio di luce in fondo al tunnel e si inizia a pensare anche a come organizzare la ripresa, si fa spesso riferimento all'indice R0 o R0. Questo è un po' l'obiettivo da raggiungere, quello che ci metterà in salvo. E la buona notizia è che non siamo lontani dal raggiungerlo, ma proprio per questa ragione, se molliamo ora corriamo guai molto seri. Professor Vella, io ho bisogno di lei perché ci spieghi perché l'indice R0 è importante e soprattutto quali informazioni ci fornisce rispetto all'andamento dell'epidemia. Allora, innanzitutto, guardi, la cosa più importante che ha detto è che non bisogna mollare adesso, perché a volte queste epidemie sono anche bifasiche. Se molliamo questo sforzo di distanziamento, tutto quello che stiamo vedendo, qualche lieve abbassamento del numero delle nuove infezioni, potrebbe essere vanificato. Ecco, quindi bisogna ancora tenere duro, perché funziona questo sistema, ha funzionato e la gente deve pensare che sta facendo una cosa per tutti noi, per tutti loro, per tutti i ragazzi, insomma, ecco, questo per prima cosa. È vero. Quindi è uno sforzo importante, perché poi c'è chi sta, diciamo, l'isolamento a casa è facile per chi magari ha una casa decente, diciamo, c'è qualcuno che è in difficoltà, va aiutato. No, sicuramente le difficoltà ci sono, ma se molliamo adesso vanifichiamo tutti gli sforzi che abbiamo fatto fino ad ora. Poi, professore, arrivando sì, a questo indice? Diciamo, a me quello che mi interessa è vedere che non ci sono, diciamo, abbassarsi il numero delle nuove infezioni al giorno. Ecco, questo intanto è la realtà. Poi l'indice, come spiegarlo in parole povere? È l'indice che è la probabilità di trasmissione per singolo contatto, cioè quante persone possono essere infettate da una persona infetta. Allora, per fare un esempio un po' stupido, è come una famiglia, no? Se una famiglia di due persone fa tre figli, la popolazione aumenta. Se ne fa due, è stabile; se ne fa uno, la popolazione diminuisce, no? È il problema della crisi delle nascite. Ecco, questo R è un po' questo: dobbiamo impedire, diciamo, a questo virus di trasmettersi con facilità e infettare più persone. E questo si fa anche col distanziamento sociale, chiaramente, perché certo, se non trova vittime, lui sparisce. Ecco, bisogna non dargli da mangiare, bisogna affamarlo questo virus. Ecco. Professor Vella, a proposito di contagiosità, si può essere contagiosi senza saperlo, questo è il grande tema, problema degli asintomatici o pauci sintomatici che sono portatori inconsapevoli del virus, che sono molti di più di quanto immaginiamo. Questa è e sarà la vera sfida che sposterà la lotta al virus dagli ospedali al territorio. Ma professor Vella, questo sommerso, numericamente così importanti, quali informazioni ci dà sul virus e quali suggerimenti può fornirci per contrastarlo? Perché nel problema si può sempre anche intravedere un po' il suggerimento ad una soluzione. Sì, allora la cosa è questa, che finalmente è uscito fuori che il numero dei casi che noi vediamo ogni giorno sono casi sintomatici e contatti degli asintomatici, dei sintomatici. Qual è il problema? È che è solo la punta dell'iceberg. Quello che adesso sembra evidente è che questo virus, a differenza della SARS, si trasmette proprio, anzi che nell'80% dei casi da un'infezione asintomatica che però può essere trasmessa. È così che è andato in giro questa bestia qui. Questa bestia, mi questa piace bestia, chiamarla sì. Questa no, bestia. Perché la SARS dava dei sintomi a tutti così gravi che le persone stavano a casa. Che certo. Si beccava su, stava a casa e poi era il numero vero. Invece qui abbiamo un grande sommerso di persone che l'hanno fatto e probabilmente questo virus è cominciato a girare a dicembre già, trasportato appunto da persone inconsapevoli che l'avevano preso, che per fortuna non avevano neanche sintomi. Questa è una buona notizia, vuol dire che l'80% delle infezioni decorre in modo asintomatico. Poi è una buona notizia perché non ci sono i sintomi, però invece queste persone trasmettono. E allora certo. Per questo bisogna spostarsi sul territorio, perché gli ospedali devono curare le persone che stanno male, che sono però una parte dei trasmettitori. Ecco, tra l'altro stando in ospedale poi alla fine uno non trasmette più, salvo gli operatori sanitari, purtroppo è uno dei problemi che abbiamo avuto in questi tempi. Con queste analisi di territorio a campione si è visto che moltissime persone hanno avuto questa infezione, non l'hanno saputo, però probabilmente hanno trasmesso, e probabilmente anche questo succede ancora se non lo blocchiamo nella sua circolazione sul territorio. Professor Vella, noi dobbiamo avere le informazioni sul traffico, ritorniamo subito dopo perché naturalmente noi dobbiamo cercare di mettere in atto tutte le strategie possibili per fermare il contagio, e tra poco proprio con lei vorrei parlare di mascherine. Le regioni si accingono a prendere provvedimenti più o meno restrittivi, le chiederò un parere da infettivologo su questi provvedimenti, ma anche che cosa dovrebbe pensare il cittadino che le mascherine spesso fa fatica a trovarle e che sull'uso di questi presidi dall'inizio dell'epidemia ha sentito messaggi molto diversi. Voi che ne pensate? State lì con noi insieme al professor Vella, a tra poco. Obiettivo salute. Eccoci, siamo tornati insieme, in linea con noi il professor Vella, con cui commentiamo i provvedimenti che stanno prendendo molte regioni, tra cui la Lombardia, la Toscana, di indossare mascherine fuori casa. Professor Vella, lei come infettivologo come legge questi provvedimenti? Quale messaggio si sente di dare anche al cittadino che sicuramente capisce l'importanza di questi provvedimenti, ma siamo un pochino confusi, disorientati? Allora, prima di tutto le mascherine per essere indossate ci devono essere, e adesso però ho capito che saranno prodotte, comprate, distribuite gratuitamente, insomma, quindi questo è uno dei problemi, diciamo, difficili di indossare le mascherine se poi non ci sono, però ci saranno. Certo, poi vanno indossate bene. Ecco. Vanno indossate bene, perché la mascherina chirurgica, non quelle lì speciali FP2, cioè ce ne sono quelle che sono per gli operatori sanitari che stanno proprio a diretto contatto, ma la mascherina serve a non trasmettere il virus che uno ha addosso, proteggono anche dal prenderlo, però è un presidio che serve agli quindi asintomatici. Quindi se le portiamo tutti in qualche modo proteggiamo. Certo, non è che se uno sta da solo in uno spazio vuoto non c'è bisogno della mascherina, anche a casa non c'è bisogno della mascherina. E soprattutto quando uno va nei posti affollati, indossare la mascherina protegge quello che sta in fila davanti a te, ecco, per capirsi. E proteggendo quella persona in un certo senso proteggi pure te stesso, perché interrompi la catena di trasmissione. Quindi lei come infettivologo è favorevole e la raccomandazione è resistiamo, indossiamo le mascherine? Lei ha detto... Sì, io penso che sia una misura importante proprio adesso che abbiamo scoperto che il virus si trasmette molto anche da portatori asintomatici. Quindi la distanza rimane sempre, professor Vella, ultima domanda, la distanza rimane un metro, è meglio stare più distanziati? Io personalmente penso che comunque un metro va bene, ma due è meglio e tre addirittura meglio, ecco, quindi diciamo bisogna stare veramente un po' distanziati. Adesso che abbiamo capito come questo virus gira, abbiamo capito che effettivamente uno può avere addosso questo virus e non avere nessun sintomo eppure trasmetterlo al proprio vicino. Ecco, ci metteremo piano piano, progressivamente, le mascherine quando stiamo nei posti affollati. Una mano sul cuore come responsabilità e una mascherina per coprire naso e bocca. Professor Vella, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a tutti gli ascoltatori, arrivederci. Ospite del nostro appuntamento quotidiano dedicato alle parole, ai pensieri che possono aiutare il nostro benessere emotivo, oggi c'è il maestro Roberto Cacciapaglia. Ciao maestro, grazie per essere con noi. Ciao Nicoletta, grazie a te, un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori. Maestro, sentirti e parlare di musica fa già stare bene, d'altronde numerose ricerche confermano quello che ciascuno di noi sperimenta direttamente, la musica fa bene al cuore, al cervello, unisce, rinforza, calma, dà energia, cura, e questo è vero non solo per chi l'ascolta ma anche per chi scrive e suona. A proposito, so che tu fai delle dirette in cui suoni con artisti di tutto il mondo, da tutto il mondo. Sì. Sì, sono delle cose molto molto belle, perché l'ultima che abbiamo fatto c'era un flautista in Nepal, una cantante in Messico, un percussionista in Francia, per cui è stata una cosa molto molto bella, no? Ma anche idealmente. No? Io bello, sì. Spesso ti dico, quando vado in giro per il mondo ho sempre la sensazione poi che le persone che ascoltano, che amano la musica, diciamo siano molto simili, se non uguali, no? È una sola voce che abbatte tutte le frontiere, le divisioni, quindi è una sensazione molto bella. E anche in queste dirette che faccio, per esempio ne ho fatta una sabato e devo dire sono accolte molto bene, perché sai, se sono in casa comunque è sempre bello poter essere vicino, e ho fatto intonare una nota, un diapason in là, a tutte le persone, perché spesso lo faccio in concerto per sentirsi uniti, sì, perché lo spazio, diciamo, non ha confini, no? E siamo insieme, e quindi lo faccio fare anche attraverso la radio, appunto, oppure i mezzi social, queste cose qua. Bellissimo. Maestro, anche la tua musica entra nei luoghi di cura. Io ho visto il video di un'infermiera che dopo il turno suonava all'ingresso di un ospedale proprio la tua musica, e ascoltandola io mi sono commossa profondamente per la bellezza. Abbiamo bisogno proprio anche di vedere come la musica può aiutarci a metterci in connessione, ma anche a raccontare delle cose di noi che forse a parole non riusciamo ad esprimere. Assolutamente sì, la musica parte dove non c'è il non verbale, no? Quindi, ma devo dirti che quella è stata una cosa bellissima, se mi piace vorrei salutarla e ringraziarla, perché l'infermiera si chiama Lotti ed è al pronto soccorso di Rivoli a Torino, dove ha suonato per tutti, per i malati, per i medici e gli infermieri, ed è stato una cosa veramente bella, sai, la serenità, comunque la calma, tutti lo dicono, poi lo sento anche i medici, i scienziati, che dicono che ovviamente certo, più si sta calmi, il panico è come un ricettivo, questo lo sappiamo per tutte, anche per questo virus, quindi mantenere una calma, una serenità è una cosa fondamentale, e la musica penso che ci possa aiutare in questo. Assolutamente, ci sono persone, maestro, che per indole o per abitudini di vita o professione vivono la solitudine, l'isolamento, non come un limite, ma come un'opportunità. E allora mi piacerebbe che tu ci aiutassi a valorizzare anche, direi, questa dimensione, perché ci farebbe bene, magari potrebbe aiutarci a sentire, a vedere questi giorni in cui ci sentiamo costretti, chiusi, isolati, anche come un'opportunità per scoprire o riscoprire qualcosa di noi, oppure delle persone che vivono con noi, magari un dettaglio che abbiamo trascurato, silenziato, ignorato, che potrebbe farci bene. Assolutamente d'accordo con te, questa, diciamo, tutta la tragedia che rappresenta, la sofferenza, però è insieme, hai detto anche tu, è un'occasione di esperienza straordinaria, perché possiamo lo spazio, ecco, rivolgerci magari nella vita quotidiana, che possiamo dire facevamo fino a qualche tempo fa, eravamo tutti rivolti all'esterno, no? Alle comunicazioni, al caos un po' anche, no? Mentre invece questo spazio adesso possiamo dedicarlo all'interno, che in ogni caso è una cosa straordinaria. E quindi è giusto, come un appello, a cogliere l'occasione per non... da non perdere questa, perché è veramente un momento di riflessione, un momento di pace, un momento di... questa è un'esperienza di unione anche attraverso la distanza. Non sempre certo. Dobbiamo aver bisogno di essere proprio attaccati, questo lo sanno dai soldati, dalle persone che lavorano all'estero, insomma ci sono tantissimi, al di là di questo virus, di condizioni in cui i nostri cari, le persone che amiamo sono distanti, no? E allora questo è comunque, sono un inter, no? Ecco, questa è un'esperienza in questo senso, di amare anche a distanza. Grazie al maestro Roberto Cacciapaglia, seguitelo con naturalmente i suoi appuntamenti, e lo seguiremo come sempre anche noi. Ciao maestro, ti abbraccio. Ciao, e noi andiamo a trovare... Grazie. Noi andiamo a trovare il nostro medicuoco quasi cuoco, anche per questa settimana ha qualche cosa di buono e salutare da insegnarci e da proporci. Buongiorno, dottore Zegovesi. Buongiorno, Nicoletta. Questa settimana parleremo, visto che dobbiamo fare fruttare al meglio questo tempo in più che possiamo avere, parleremo di tecniche di cottura e quindi tutto quello che possiamo fare per sfruttare, in termini di guadagnare salute, dei modi anche magari solo un pochino diversi di cucinare le nostre cose. Ad esempio, per oggi ci propone qualche cosa di molto profumato, tecnica di cottura che insomma associamo sempre a qualche cosa di poco invitante, con poco sapore, da un appeal tutto particolare. Dottor Arzegovesi, la svegliamo? Assolutamente, il vapore che diciamo, ecco sì, il vapore... il cibo da ospedale? Assolutamente no, il vapore è una tecnica che ci fa guadagnare salute, proprio perché non va a lavare via, come fa la bollitura, una serie di vitamine idrosolubili, quindi le vitamine che vanno via con l'acqua, tipo la B, il gruppo B e la C. Contemporaneamente è un'occasione stupenda per poterci sbizzarrire con degli aromi che, essendo trasportati dall'aria e dal vapore, possiamo mettere nelle due dita d'acqua che metteremo sul fondo della nostra pentola, e allora lì ci possiamo mettere delle spezie, delle erbe aromatiche o anche semplicissimamente i pezzi di verdure avanzate, quando abbiamo preparato le nostre verdure fresche, renderanno questa sorta di brodo vegetale improvvisato molto goloso e molto profumato. Anche un semplicissimo pezzettino di merluzzo piuttosto che un pezzettino di pezzettino avrà di pollo, tutto un altro sapore. Non buttiamo via nulla, le vitamine, i sali minerali sono preziosi, non buttiamoli durante la cottura. Grazie al dottor Arzegovesi, che incontreremo domani. Grazie a voi, vi aspetto, buona giornata.